Mix 24, la storia. Era andata a una festa in prefettura, perché ero molto amica dei figli del prefetto di allora. E lì siamo stati fino a ballare fino alle 3 di notte. Io esco attraverso la strada, ma faccio sul Mugnone, su questo torrente, e vedo che era salito enormemente. Il telefono non faceva, la luce non si accende, si aprì la finestra, era già l'acqua che iniziava insomma a salire. 80 milioni di metri cubi di acqua e di fango invadono una città in meno di 12 ore. È il 4 novembre del 1966, oggi a Mix 24 va in scena il racconto dell'alluvione di Firenze, la storia di un disastro naturale, del recupero di un patrimonio artistico inestimabile e soprattutto di una mobilitazione senza precedenti in Italia e nel mondo. Una catastrofe, insomma, che ha dato origine a una straordinaria e irripetibile avventura collettiva. La parola allora ai protagonisti di quella storia, ai fiorentini che hanno combattuto con straordinaria tenacia in quelle ore che non potranno mai dimenticare. Firenze, venerdì 4 novembre 1966. Sulla Toscana piove ininterrottamente da una settimana. All'alba le autorità sono state costrette ad aprire le dighe dell'Enel. L'idrometro a monte della città segna 6 metri e 90 centimetri. Appena al di sotto del livello toccato dall'ultima alluvione, quella del 1844. In centro cominciano a saltare le vecchie fogne che risalgono al Granducato. Si teme l'esondazione dell'Arno. Prefetto e questore allertano l'esercito e le forze dell'ordine, ma per la popolazione non scatta nessun allarme. Giorgio Batini, esperto cronista della Nazione, riceve le consegne dai colleghi che hanno fatto la notte. L'incarico che ebbi io da quelli che smontavano, stai attento a Ponte Vecchio. La mia giornata cominciò con questo, era l'alba, era ancora buio, e mi alzai, mi vestì e corsi sull'alba per vedere Ponte Vecchio. Quando mi accorsi che verso la zecca, la torre della zecca, l'Arno stava superando le Spallette. Il fiume sta straripando. Umberto Giorgi, custode della Biblioteca Nazionale, che occupa con la famiglia un appartamento all'interno dell'edificio, tenta di mettersi al sicuro. Aprì la porta di casa, dove c'era mia moglie e il bambino, li feci scendere, dove si bagnarono anche loro, e tornammo dentro la biblioteca e li feci salire in cima alla biblioteca. La marea imbocca Corso dei Tintori e avanza inarrestabile verso Piazza Santa Croce. Padre Massimiliano Rosito è all'epoca uno dei più giovani francescani che da secoli custodiscono i tesori della Basilica. Siamo usciti sul sagrato e che abbiamo visto? Abbiamo visto una macchina senza guidatore che veniva trasportata dall'onda, che veniva dal Corso dei Tintori, e venivano verso la piazza così, navigando da soli. In pochi minuti la vasca naturale di Santa Croce è completamente piena d'acqua. Poi l'acqua si incanala in via delle Pinzocchere, dove abita la famiglia del sindaco, lo scrittore Piero Bargellini. La voce che ascoltate è quella di sua figlia, Antonietta. Ci affacciamo alla strada e si vide una specie di torrente con una violenza. Quest'acqua che veniva, la cosa che faceva più paura era la violenza di quest'acqua. Ma Bargellini non può aiutare i suoi familiari. Il sindaco infatti è serragliato a Palazzo Vecchio, dove sta cercando di raccogliere le prime informazioni. I quartieri oltre Arno sono sommersi. Molti hanno cercato scampo sui tetti e ora aspettano i soccorsi. Dalla prefettura intanto arrivano pessime notizie. Carabinieri e polizia nella notte sono partiti in massa per rispondere a tutte le chiamate provenienti dal Valdarno. Anche i vigili del fuoco, ricorda Gino Cacace, hanno gli uomini contati. Non c'era quasi più nessuno. E soprattutto quei poi che c'erano, stava preparando la radio, stava cercando di... perché anche, stava tirando sulle macchine, perché le macchine pensavano di rimanessero, le macchine nostre, dei pompieri, rischiavano di rimanere alluvionate, no? Sotto l'acqua. In pieno centro, alla Galleria degli Uffizi, l'Arno ormai invade i depositi e i laboratori al pian terreno. Bloccato in casa, il sovrintendente Ugo Procacci è in ansia.

quando l'acqua è salita ancora peggio, allora gli stessi detenuti, diciamo, questi che fanno i pulizie qua all'asta, sono ribellati contro le guardie che diciamo li tengono sotto controllo per fare le pulizie ai detenuti quelli chiusi. E allora hanno cominciato ad aprire contro l'ordine del maresciallo. Il maresciallo ancora non aveva dato ordine di aprire. Al carcere delle Murate, insomma, la situazione sta precipitando. Di fronte all'acqua che avanza e inonda le celle, i detenuti si precipitano ai piani più alti dell'edificio e cercano scampo sul tetto. Ma in tutta la città sono naturalmente ore frenetiche. Gino Cacace, il vigile del fuoco che abbiamo ascoltato, percorre le vie del centro a bordo di un canotto. Ecco la sua incredibile testimonianza. Siccome c'era tutte le iscrizioni dei negozi, no? Panificio, che so io, pizzeria, l'acqua era proprio intorno a queste iscrizioni, no? Quindi per noi poteva essere dei punti, dei rapidi validi, capito? Allora dissi, te, io remo e te tu attacchi a queste iscrizioni, via via via via, e si guarda. Da una finestra ormai a pelo d'acqua chiedono aiuto un vecchio e un bambino. Guarda, rimani qui con tuo nonno, perché tu vieni su questo canottino, insomma, è pericoloso. Dice, ma io voglio andare dai miei genitori, ed erano dalla parte della strada, no? Insomma, ci fu pezzo di convincerlo. Allora si portò al centro di questo canotto, si partì e poi si arrivò a forza di, naturalmente, tutto quello che dove sera a venire su ci sarà messo, no, delle ore a ritornare in via Doni, dove poi si svoltò, ci si mise pochi secondi da come l'acqua stava tirando. Agli Uffizi intanto si tenta di salvare le tele del corridoio Vasariano, l'ala del museo che corre lungo il Ponte Vecchio. È una delle più importanti collezioni al mondo. Decine di ritratti, alcuni dei quali tuttavia di peso proibitivo. In condizioni normali il loro trasporto richiederebbe ore, ma oggi non c'è tempo. Il corridoio potrebbe crollare da un momento all'altro. L'impresa è affidata ancora una volta al professor Baldini. Lo mettemmo tutti di taglio, questi quadri che erano seguiti su tavola, e poi facendoli scorrere, diciamo, proprio pigiandoli velocemente, mantenendo quindi l'equilibrio sul pavimento, si riuscì a portarli via tutti. Sono state una settantina di opere. Per Baldini non c'è un attimo di tregua. All'interno del museo, dietro la cappella di San Pier Scheraggio, c'è un laboratorio di restauro. L'acqua lo ha già invaso. Molte opere vengono messe in salvo attraverso uno stretto accesso secondario, ma l'incoronazione della Vergine di Sandro Botticelli è troppo larga. Riuscimmo a fare una specie di piccolo grattacielo di capre di legno, e poi piano piano insieme, tutti insieme, a metterci, a depositarci nel piano superiore l'incoronazione della Vergine del Botticelli. Se l'acqua anche fosse salita ancora, non sarebbe certamente, non avrebbe potuto raggiungere la superficie dipinta. Se poi la raggiungeva, come si diceva allora questa è l'alluvione, non è più l'alluvione, ma è l'arca di Noè, il diluvio universale. Alle Murate intanto si registrano alcune evasioni. I figli di un ispettore della polizia penitenziaria, inoltre, sono intrappolati dall'acqua in un appartamento ai piani bassi dell'istituto. E a questo punto, ricorda Alessandro D'Ortensi, che tutti i detenuti rimasti si lanciano al salvataggio senza esitazione. Non si apriva un cancello, avevamo divertato un cancello, ci siamo buttati in acqua, abbiamo fatto la catena umana tra la sezione cubicolare delle nostre celle e il reparto dove stavano questi bambini nell'abitazione dell'ispettore. E abbiamo fatto questa catena, l'abbiamo passato uno per uno man mano, l'abbiamo portato nella sezione, poi direttamente portati su all'ultima sezione dove c'era la sartoria. A Palazzo Vecchio si continuano a raccogliere informazioni. Il quadro si fa più grave di ora in ora. L'unica speranza a questo punto sono gli aiuti da Roma. In Toscana, oltre che a Firenze, la situazione è critica in numerose altre zone. E l'aspetto più drammatico della situazione è costituito dall'isolamento di Firenze. Il Duomo si trova al centro di un vortice di acque alte 1,5 metri. San Frediano, che è un rione molto popoloso, ha l'acqua alta per le strade. Fra le tante, Firenze è l'unica città dalla quale non siamo, purtroppo, fino a questo momento almeno, riusciti ad avere le immagini che documentano il flagello. Dopo l'esondazione dell'Arno, la città è completamente isolata, la pioggia continua a cadere, le acque invadono le strade. Ancora è certo il bilancio dei danni e il numero delle vittime. Le testimonianze della figlia del sindaco Antonietta Bargellini e del giornalista della Nazione Giorgio Battini restituiscono tutta la tensione di quelle ore. Passava la voce che i morti erano a centinaia. Perché cosa era successo? Tutti i negozi che erano stati sventrati dall'acqua avevano i manichini e questi manichini giravano nell'acqua e sembravano cadaveri. Poi c'era, per esempio, qui vicino a Santa Croce c'era un'ofisa con le bare, anche queste bare giravano nell'acqua. Perciò chi vedeva le strade anche dalle finestre sembravano morti che galleggiavano e che andavano velocemente. Tutti i serbatoi di una città d'invernale erano stati vuotati dall'acqua, quindi sopra l'acqua galleggiava uno strato così di nafta. Molta gente, dopo che si rese conto di quello che era accaduto, cominciò a temere che prendesse fuoco la nafta e che Firenze non sarebbe potuta essere salvata. Ma tra gli alluvionati c'è anche un giovane sostituto procuratore della Repubblica. È destinato ad un'illustre carriera, si chiama Pierluigi Vigna. L'acqua seguitava a crescere. Allora ci furono due tendenze. Una fu di mio padre, il quale andò a finire in un ripostiglio alto, portando con sé un pezzo di roast beef e dicendo molto saggiamente: quando l'acqua arriverà quassù, o si muore tutti o si distenderà. Io, che ero molto più attivo, ma avevo una bambina piccola allora, attraverso una scala che misi nel vuoto, riuscii a raggiungere il tetto di un'altra casa, molto più alta, a divellere una inferriata e a essere ospite di questa famiglia, in attesa degli eventi. Ormai è notte, la macchina dei soccorsi, finora lentissima, è finalmente in moto. Un reggimento dell'esercito si accampa a Campo di Marte, vicino allo stadio, mentre il ministro Pieraccini è il primo rappresentante del governo ad arrivare in prefettura dopo 12 ore di viaggio. Fui messo su un battello pneumatico e così, credo, l'unico uomo della storia di Firenze che è entrato in battello nel Palazzo Medici Riccardi. Dopo una giornata da incubo c'è però anche il primo segnale di speranza. Se apro una finestra, tanto per dare l'impressione di che cosa c'è sotto di noi, se si sente il rumore, ecco. Non so se vi giunge questo rumore. Arriva perfettamente. Ecco, questo non è un fiume, è la via Cerretani, è la via Panzani, è il cuore di Firenze, invaso dall'acqua. Posso tranquillizzare però chi sta in ascolto, perché poco fa qualcuno di noi è sceso giù per misurare l'acqua e a dita, con le dita della mano, bene, l'acqua è scesa di 10 dita. L'acqua quindi lentamente inizia a scendere, il peggio è passato, si cominciano a contare i danni e già da subito il bilancio appare molto preoccupante. Mix 24. Rieccoci a Mix 24, riprendiamo la cronaca dell'alluvione di Firenze raccontata con la voce delle testimonianze dei protagonisti dell'epoca. Il peggio è passato, in città finalmente l'acqua comincia a scendere. Le autorità in prefettura iniziano a fare il conto dei danni e il quadro appare subito molto critico. È l'alba di sabato 5 novembre del 1966. Così il ministro d'allora, Giovanni Pieraccini, ricorda. Poi Venne l'alba, venne il 5 novembre e lì l'acqua cominciarono a ritirarsi, si ritirarono, ma lo spettacolo fu ancora più drammatico perché le strade erano piene di mota, di fango, dove ci si poteva entrare a mezza gamba, di rottami, di cose, e le case invase dalle acque, i negozi distrutti perché le acque avevano naturalmente rovinato tutte le merci, tutte le cose. A Campo di Marte, nel quartier generale dei soccorritori, ferve l'attività. Si alzano in volo i primi elicotteri dell'aeronautica e dei carabinieri, che trasportano acqua e generi di prima necessità. Nel pomeriggio tornano transitabili viali. Il giorno dopo, domenica 6 novembre, arriva in città il Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat. Saragat, come mostrano queste immagini, ha improntato la sua visita alla massima semplicità, per non intralciare il lavoro dei civili e dei militari intenti a rimuovere le macerie e il fango, a liberare gli scantinati e i primi piani dalle acque limacciose. Questo è lo spettacolo desolante che si è presentato al presidente in piazza Santa Croce. Durante il tragitto, però, ricorda Antonietta Bargellini, il presidente viene contestato. Fu insultato dai fiorentini perché non arrivava nessuno. Poi dopo, proprio in piazza Santa Croce, si impantanò la jeep perché era piena di gente e gli stessi fiorentini che l'avevano insultato poi l'aiutarono a uscire fuori da questo pantano per ritornare in Palazzo Vecchio. È un impegno di tutta la nazione, ha detto Saragat, di restituire Firenze allo stato in cui era prima di questa terribile sciagura. E nel dire ciò, ha aggiunto, sono sicuro di interpretare la volontà di tutto il paese. Finita l'emergenza inondazione, comunque, la città vive di nuovo un incubo. Nella Basilica di Santa Croce, un capolavoro di inestimabile valore rischia di andare perduto per sempre. È il crocifisso ligneo di Cimabue. Padre Rosito e il professor Baldini della sovrintendenza sono tra i primi a tentare di fare qualcosa. Ho pensato di prendere un colino da brodo per setacciare il fango che era ai piedi della croce. Setacciarlo tutto, quello spazio così di fango, per vedere se c'era ancora qualche scheggia. Era al 30% già perduta tutta la sua superficie pittorica, almeno per quello che riguarda il corpo. Si strappavano i capelli, perché dicevo, frati, siete poco di buono, perché avete fatto perdere il Cristo del Cimabue. Ma come si faceva a smuovere il Cristo del Cimabue? Per depositarlo come noi volevamo, sul piano, in maniera che non avesse a perdere, cadendo nel fango, pezzi di pittura o qualche cosa o altro, ci mettemmo 7 ore. Nel diario del soprintendente Ugo Procacci è documentata tutta l'angoscia di quei momenti. Nelle nostre gallerie, nei nostri musei, nelle nostre chiese, tutto era imbrattato sozzamente da fango e nafta. E là, in mezzo, le nostre opere d'arte offese, ferite, spesse volte distrutte. Si passava di dolore in dolore. Man mano che passano le ore si capisce che la situazione più grave è alla Biblioteca Nazionale. Il 6 mattina alcuni funzionari riescono finalmente a farsi largo fra i detriti e raggiungono i custodi. Siamo saliti su questo albero che era caduto e che era stato messo quasi a passerella per permettere di entrare in biblioteca, e poi dentro era lo sfacelo. Capolavori di inestimabile valore rischiano di andare perduti per sempre tra il fango e i detriti. In quelle ore, seguite all'esondazione dell'Arno, a Firenze manca tutto. Manca la luce, manca l'acqua potabile, non funzionano i telefoni, si verificano anche episodi di sciacallaggio e c'è addirittura il rischio di epidemie. Eccoci ai depositi dei mercati generali di Firenze, a San Lorenzo, dove migliaia di quintali di derrate avariate spandono miasmi insopportabili. Si profila il pericolo di epidemie. Intervengono i soldati con le maschere antigas. Il fetore supera ogni immaginazione. Impregna gli abiti fino al profondo delle fibre. Soltanto i soldati agiscono in questo ambiente malsano, impraticabile. Per ottenere l'apertura delle grandi celle frigorifere, le cui chiavi sono in possesso dei proprietari introvabili, è stato necessario emanare d'urgenza un'ordinanza prefettizia. E finalmente i genieri hanno potuto scardinare le porte blindate dei magazzini per consentire agli altri soldati di rimuovere partite di pesce e di carne. Disagi e privazioni esasperano i fiorentini. Un solo reggimento dell'esercito non può bastare e nonostante l'impegno diretto di Saragat, sembra che l'unica preoccupazione del governo sia quella di salvare la faccia. Lo sconforto emerge ai microfoni dei primi inviati della TV di Stato. Cosa volete che io dia? È un dramma e le testimonianze sono queste. Quello qui, dopo 17-18 anni, di vita artigianale, con una passione ed un'attività non indifferente. Voi come vedete la testimonianza l'è qui sul tavolo, tutto devastato, gli è un po' difficile battersi. Spero se troverò la forza, e non voglio mica vivere di elemosine. Le polemiche finiscono con il coinvolgere persino un personaggio amato da tutti i fiorentini, il sindaco Bargellini. Eppure è proprio da questo mite intellettuale che ha inizio il riscatto di Firenze. Eccolo in un'intervista rilasciata nelle ore immediatamente successive all'alluvione. I danni, professore, i danni? I danni sono incalcolabili, perché distrutta la mobilia nelle famiglie e distrutte specialmente le botteghe dove si ricrea la ricchezza. Dunque bisogna rimettere in piedi le botteghe artigiane. Quante botteghe? 5-6.000. Quindi a questa gente bisogna dare subito il filo, subito, in modo che possano domani ricominciare. È qui che rinasce la vita. Previsioni sulla ripresa? Previsione... è il tempo che non gli si dà. Se si comincia da domani, a Natale sono quasi a posto. Speriamo. Tra un mese, e ci vuole fino a agosto, tra 3 mesi siamo tutti morti. L'abnegazione e la voglia di riscatto del sindaco, di tutti i fiorentini, non sfugge ad un cronista di razza come Indro Montanelli. Ecco il suo ricordo dei giorni successivi alla catastrofe. Io ricordo anzi che quando arrivai lì al palazzo comunale trovai un funzionario, il quale si aggirava in mezzo a sta povera gente che era lì a cercare dei beni di soccorso, con una gavetta in mano e un cucchiaio, e gridava: durasse, durasse. Dico: ma come durasse? Durasse cosa? E dice: durasse l'Arno a farci questi dispetti, perché vede, è in questi momenti che i fiorentini si vogliono bene fra loro. I fiorentini non si vogliono mai bene fra loro, e invece ora si vogliono bene fra loro. Ho visto delle battute. Per esempio, c'erano le trattorie del centro, ci aveva messo per dirti fiorentini com'era, no? Noi lo sappiamo, siamo di Firenze, ma uno è fuori. Dunque la trattoria c'era un cartello: oggi sono umido. Ma il coraggio e l'abnegazione non bastano. Dopo i guasti provocati dalla furia delle acque, ora ci sono quelli del fango che si secca troppo rapidamente e dell'umidità che, ricorda il professor Baldini, attacca centinaia di affreschi. Il muro era bagnato completamente, il muro si essicca e quindi piano piano cosa fa? Scioglie i sali che sono contenuti nel muro, viene in superficie e quando si secca in superficie cristallizza e sputa, quindi pinge come un cratere che si apre il colore. E purtroppo poi la superficie erano state colpite anche da tutta quella, diciamo, da quei materiali che insolitamente vengono a toccare l'opera d'arte, come la nafta, gli oli, lo sporco, il fango. A Firenze, insomma, si sta correndo il rischio di perdere un patrimonio dell'intera umanità. La notizia rimbalza in tutto il mondo. Da subito, infatti, è chiaro che la buona volontà e l'ingegnosità non sono sufficienti per risolvere il problema. Per salvare quei capolavori insostituibili ci vogliono gli specialisti, i mezzi, le tecnologie, insomma ci vogliono i soldi, tanti, tanti soldi. The effort which is taking place now in this great city is certainly worthy of the proud tradition. Il compito del comitato che si è formato adesso in America e in Inghilterra con il nome di CRIA è quello di fare di tutto per venire in soccorso a questo enorme capitale di valore umano e artistico che appartiene a noi tutti. Quella che avete sentito è la voce di Ted Kennedy, il fratello del presidente degli Stati Uniti John Kennedy, assassinato 3 anni prima a Dallas. È lui in quei giorni il capofila di una mobilitazione generale per aiutare Firenze a salvare con una raccolta di fondi i suoi capolavori. E Kennedy, si dice, pagheranno di tasca loro per i restauri. Ma a Firenze non arrivano solo i soldi, arrivano anche tanti, tantissimi giovani che inizieranno una gara di solidarietà. Mix 24. È la storia della Firenze in ginocchio del 66, quella che stiamo ripercorrendo oggi a Mix 24. L'alluvione mobilita tanti potenti dall'America, Ted Kennedy si fa promotore di una campagna internazionale per raccogliere fondi. Ma a Firenze non arrivano solo i soldi, arrivano soprattutto quelli che tutto il mondo conoscerà come gli angeli del fango, ragazzi impegnati in una straordinaria avventura di solidarietà che coinvolge un'intera generazione.